Investire informati. Lo avevamo messo un pochino in naftalina, ma lo abbiamo rispolverato il nostro Gianni Lupotti, il nostro maestro per eccellenza. Chissà se si è fatto una risata o se si è offeso. Lupotto, buongiorno, consulente indipendente, amministratore delegato di Alfa, società di consulenza finanziaria. Buongiorno, bentornato. Sì, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono appena uscito dall'armadio adesso. Fresco fresco per il cambio di stagione. Il cappotto, quello pesante, esatto, che si mette coi primi freddi. Non sono stata molto carina in questo benvenuto, ma mi è venuto spontaneo, è perché da tantissimo che non lo sentiamo. Però questo è un tema a cui Gianni Lupotto tiene molto, perché in realtà sta seguendo moltissimi clienti che appunto chiedono proprio un esame della propria situazione assicurativa. In molti scoprono di avere questi prodotti di investimento in portafoglio, ma non sempre ne conoscono i difetti, come dire, gli svantaggi, anche se chiaramente stamattina affronteremo anche il tema delle opportunità che questi strumenti di investimento danno. Volevo anche ricordare ai nostri ascoltatori che c'è stato un momento particolare degli ultimi anni in cui abbiamo parlato molto di questo tema, quando alcune migliaia di risparmiatori avevano scoperto di avere sottoscritto polizze il cui rendimento era collegato alle obbligazioni Lehman Brothers. Erano state sottoscritte persino presso gli sportelli postali. Tutti erano convinti di avere delle polizze pure semplici che conservassero il loro denaro appunto senza rischi, e invece la dinamica di questi prodotti era ben diversa dalle aspettative. Per cui 800 24 00 24, microfoni aperti alle vostre domande su questi strumenti di investimento, proveremo questa mattina a rispondervi. Devo andare già a raccontare la borsa, Lupotto, però una prima domanda gliela faccio. Queste polizze sono offerte praticamente da tutte le banche, per cui non è una compagnia di assicurazione generalmente che la propone, ma più frequentemente è lo sportello bancario, che hanno anche un po' questo vizietto di avere un pochino di conflitto di interesse, perché propongono anche i prodotti della casa, no? C'è questa attività che è conosciuta nel mercato come banca insurance, banca assicurazione. Quali sono intanto le più diffuse? Poi andremo all'esame delle loro caratteristiche. Volendo classificarle sommariamente, sono classificate in rami queste polizze. Ci sono quelle di ramo primo, anche dette a gestione separata, e queste normalmente sono a capitale garantito. Poi ci sono le ramo terzo, che sono anche dette index linked o unit linked, quindi che sono legate ad un singolo indice, oppure il cui controvalore è legato ad un paniere di titoli, un cosiddetto fondo interno. E poi ci sono quelle di ramo quinto, che non sono neanche legate alla vita umana, sono polizze di pura capitalizzazione, e perciò spesso sono un po' meno interessanti perché vengono meno anche alcuni benefici fiscali. Questa è la macro classificazione. Esatto. Cuore e denari. Altro che naftalina, questa è proprio una puntata rock dedicata a alcuni strumenti di investimento un po' particolari, in realtà molto diffusi sul mercato, ma quello che abbiamo scoperto, l'ho notato anche indagando un po' sulla materia, guardando per esempio alle lettere che arrivano a Plus 24 del Sole 24 ore, che ci sono molte persone che, immaginando di mettere il proprio denaro in una piccola cassaforte come quella che può essere rappresentata da una polizza assicurativa, scoprono quando magari è il momento di disinvestire che in realtà avevano investito in polizze assicurative sì, ma a contenuto finanziario, e quindi il rendimento non è quello che si aspettavano, il riscatto magari è un po' più oneroso del previsto. Stiamo esplorando questo mondo con Gianni Lupotto, amministratore delegato di Alfa, società di consulenza finanziaria e consulente indipendente. Allora, 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande. Abbiamo fatto, dottor Lupotto, la prima classificazione macroscopica, diciamo, di queste polizze vita, spiegando la differenza fra quelle che sono nel ramo 1, ramo 3 e ramo 5. Noi in realtà stamattina faremo il nostro approfondimento sul ramo 3, no? Le index e le unit linked. Ma avevamo lasciato in sospeso questa domanda: ci sono importi minimi di premio in base ai quali classificarle ulteriormente dopo questa prima generica classificazione già fatta? Sì, c'è una possibile classificazione per dimensioni. Le polizze cosiddette retail, cioè al dettaglio, che normalmente vanno da poche migliaia di euro fino a 250.000 euro di premio, e quelle che vengono chiamate polizze private, cioè oltre 250.000 euro. È una distinzione abbastanza importante perché paradossalmente le principali criticità in termini di costi si riscontrano proprio su quelle più piccole, cioè sulle polizze retail. Le polizze private, oltre ad essere notevolmente più economiche in termini percentuali, sono anche più flessibili. Insomma, è proprio vero allora quando i risparmiatori contestano il fatto che più si ha poco risparmio da parte, più vengono un po' vessati dagli intermediari, Lupotto. Sì. Piove sempre sul bagnaccio. Cioè, Proprio così, dice Nicoletta. Ecco, senta, a proposito di Nicoletta, me la sento molto raffreddata, ha bisogno di una consulenza qua al volo? Ci vorrebbe proprio. Sì, guardi che domani vengo a Torino, quindi se ha bisogno le porto qualche rimedio da fattucchiera. Allora, ho richiamato prima quello che è successo dopo il 2008 con il fallimento di Lehman Brothers, quando molte migliaia di risparmiatori italiani avevano scoperto di avere polizze index appunto i cui rendimenti erano agganciati alle obbligazioni Lehman Brothers. Erano state distribuite da molti colossi dell'industria bancaria italiana, ma anche dalle Poste italiane. Poi il sistema ha rimediato indennizzando quasi integralmente i sottoscrittori di queste polizze che non avevano capito affatto di aver sottoscritto appunto polizze a contenuto finanziario. Allora andiamo proprio alle più diffuse, Lupotto, le unit linked, perché qua il tema è, come dire, il nome è in inglese, ma dobbiamo capire che così si chiamano, la traduzione letterale credo che sul prospetto non ci sia scritta, quando la sottoscriviamo, Lupotto, oppure c'è anche qualcosa di più comprensibile rispetto a questo, a questa definizione? Sì, di comprensibile c'è poco, comunque cerchiamo di chiarire qualche punto. Questi a tutti gli effetti si tratta di polizze vita, quindi c'è un vestito contrattuale che avvolge l'investimento, che è una polizza, anche se a volte questo vestito è molto leggero, e questo è un punto critico su cui poi torneremo. Le figure contrattuali tipiche della polizza quindi sono il contraente, che è chi versa il premio, l'assicurato, che è la persona sulla cui vita è stipulata la polizza, e uno o più beneficiari, che sono le persone che incassano il patrimonio in caso morte dell'assicurato. Questi contratti assicurativi sono a vita intera, vuol dire che non hanno una scadenza fissa, si mantengono attivi fino al decesso della vita assicurata, ma è sempre possibile un riscatto anticipato da parte del contraente, a volte con penali, a volte no. Esatto, infatti, quindi prima attenzione da fare quando si firma questo contratto, fare una valutazione, farsi dire bene, nel caso io voglia riscattare in tempi anticipati, quanto mi costa? Punto. Perché può sempre capitare. Assolutamente, di doverlo riscattare. Giusto. Nel caso morte la polizza si estingue e quindi viene liquidata ai beneficiari così come indicati dal contraente. I beneficiari sono sempre modificabili durante la vita della polizza. La liquidazione avviene ai beneficiari secondo il controvalore del fondo sottostante più una maggiorazione, che è la cosiddetta componente caso morte o componente demografica. Quindi se io ho versato 500, non pensiamo che quando il prodotto scade mi venga restituito esattamente 500, bisogna considerare quello che è stato l'andamento del fondo sottostante, che potrebbe essere stato anche negativo e molto negativo, Lupotto. Esatto, perché il premio versato dal contraente va a finire in un fondo appunto che viene gestito secondo una politica di investimento che è definita all'interno di una rosa di possibili scelte che sono offerte dalla compagnia. In alcuni casi è lo stesso contraente che decide la composizione selezionando il numero di fondi, ma quello che è importante è che questo fondo cambia di valore e può anche andare al di sotto del versato iniziale. Certo, allora tanto vale investire in un fondo di investimento, no? Se si deve scegliere una polizza che ha come sottostante un fondo di investimento, qual è il vantaggio del sottoscrivere una polizza, se vogliamo guardarla in senso positivo, questa soluzione, Lupotto? In realtà appunto la polizza consente di diciamo avere il capitale garantito, perché esistono degli addendum contrattuali che consentono specifiche clausole che consentono, pagando un premio aggiuntivo, di avere una garanzia di capitale. Basta poco di attenzione, ma di solito siamo un po' distratti, sappiamo che chi ci sta di fronte magari ci propone l'investimento con fretta, senza interesse ad andare troppo a fondo. Quindi questa copertura in realtà ci sarebbe possibile, e è possibile soltanto nella polizza. Quindi questo è un beneficio, è un vantaggio. Un altro vantaggio è un differimento fiscale, quindi dal momento che la polizza è un contenitore e ha una funzione previdenziale, i redditi di natura finanziaria che maturano all'interno della medesima non sono soggetti ad una ritenuta fiscale fin tanto che rimangono all'interno della polizza. La tassazione c'è al momento del riscatto oppure nel caso morte. Quindi Questo è un vantaggio tanto più importante quanto più lungo è il periodo della polizza, perché consente di reinvestire all'ordo invece che al netto. Prima di andare agli altri benefici e agli altri vantaggi di queste forme di investimento, Lupotto, le faccio sentire un'ascoltatrice all'800 24 00 24, quindi diamo il benvenuto ad Anna da Milano. Grazie signora Nicoletta. Deborah, ma grazie, sono contenta che ringrazia me. Ormai Anna, siamo interscambiabili. Sì. E come dice sempre Nicoletta, lei viene la coscia lunga, io divento bella magra, affusolata, insomma Anna qua. Beate voi. Ci dica tutto. Allora, il problema è questo, io ho una polizza da 4 anni con la Banca Popolare di Milano, il ragazzo me l'ha consigliata, ci siamo un po' affezionati a questo ragazzo, il primo anno non ho guadagnato niente, ma non mi interessa guadagnare. Io mi interessa di conservare, di proteggere, non proprio, perdere. È quello che mi fa paura. So. Ecco, è certezza 10, si chiama, e lui mi ha assicurato quando voglio posso ritirarla. Parte il primo anno, appunto, che non ho guadagnato niente, di solito prendo sui 900 euro all'anno. Sì, poi dipende quanto hai investito, ovviamente, perché ecco, così in assoluto 50, è una bella cifra, insomma, una bella tredicesima, che non è che ci faccia proprio, non è che la disdegniamo, Anna, sì, no? Anche perché io ho una pensione piccolissima, sia io che mio marito. No, ma esatto, l'obiettivo è quello che molte persone, quando investono, soprattutto quelle che hanno un profilo di rischio molto basso, vogliono proprio questo, un reddito integrativo, che era un po' quella funzione che aveva Lupotto, il BTP qualche anno fa. Che adesso ha perso. Sì, quindi. Anna cosa vuole sapere? Voglio sapere se posso stare tranquilla. Allora noi dovremmo vedere, Anna, il prospetto, vedere la documentazione, considerare bene anche in quale altra modalità lei gestisce, se ne ha, io glielo auguro, il resto del suo risparmio. Però Lupotto, diamo due indicazioni ad Anna, come può essere sicura del fatto che questa polizza risponda alla sua richiesta principale, non perdere nulla e continuare a garantire questo reddito integrativo che al momento le viene distribuito. Come ha detto lei, Deborah, bisognerebbe analizzare il prospetto, perché di solito questo reddito integrativo può darsi che venga erogato penalizzando il capitale investito, però questo lo si può capire solo analizzando, magari la nostra ascoltatrice, come è capitato in altri casi, può mandarci una mail alla redazione e noi faremo un'analisi. Grazie. A parte. Lo faremo fare, ci facciamo fare un PDF del documento. Detto questo, però, due indicazioni su dove andare a leggere nel prospetto sulle garanzie fornite da questo prodotto. Dunque, allora, questo è uno degli svantaggi delle polizze, che hanno una contrattualistica molto complessa e molto poco chiara. Se vogliamo sintetizzare, il principale svantaggio delle polizze retail risiede proprio nella struttura complessa che comporta una lievitazione di costi. Perché ci sono due livelli, il livello del mantello e del vestito di polizza, come dicevo prima, che ha un costo, e poi gli investimenti sottostanti, che normalmente nelle polizze retail sono dei fondi di investimento, hanno un secondo livello di costo. Questi costi a volte sono tali da vanificare i vantaggi che dicevamo prima, quindi è assolutamente indispensabile fare un'analisi approfondita prima di sottoscrivere qualsiasi contratto, perché se poi si cambia idea esistono spesso penali di uscita per cui un ripensamento tardivo è molto costoso. Cuore e denari. Sì, il quizzettone lo facciamo perché Gianni Lupotto sarà anche uscito dall'armadio con la sua naftalina, come dicevamo, ma il nostro, invece, noi abbiamo una biblioteca ricca di libri, appunto, che vogliamo distribuire ai nostri ascoltatori. Per cui il domandone che vi facciamo oggi su Investire Informati è: dateci la definizione, ne abbiamo parlato a lungo, quella che volete, come l'avete capita, della polizza unit linked o index linked, quindi indicizzate a che cosa le due diverse forme assicurative. Rispondeteci all'800 24 00 24, noi siamo pronti naturalmente a regalarvi qualche cosina delle cose che abbiamo qua. Allora, queste polizze Lupotto, tra i vari vantaggi abbiamo spiegato in che cosa consiste il beneficio del differimento fiscale, andiamo invece alla esenzione della tassa da successione, l'impignorabilità e insequestrabilità, cioè l'esenzione da tassa di successione significa che le somme corrisposte ai beneficiari in caso morte non entrano a far parte dell'asse ereditario e quindi di per sé sono esenti da tassa di successione. L'impignorabilità e l'insequestrabilità è un beneficio che viene spesso sbandierato dai venditori di polizze, ma esistono precisi limiti e restrizioni perché questo possa avvenire. Il principale dei quali è che la polizza deve essere costituita in bonis, quindi non quando uno è diciamo inseguito dai creditori, perché altrimenti questi benefici decadono immediatamente. Certo. Per tutti questi benefici è importante, come dicevo già prima, che la polizza sia una vera polizza vita, quindi abbia un'adeguata componente caso morte. Mm-hmm. Altrimenti, se il vestito contrattuale è troppo leggero, può essere considerato insufficiente e quindi questi benefici cadono. Certo. Senta Lupotto, lei che ne so che ne analizza tante durante la sua giornata lavorativa, quali sono quelle più originali, stravaganti, che le sta capitando appunto di analizzare, tanto per mettere così un po' di pulci al naso ai nostri ascoltatori, così magari vanno a tirarle fuori dal cassetto e le vanno a controllare? Direi che la casistica più frequente ultimamente, è diventata abbastanza di moda, sono le polizze in cui si versa un premio e questa polizza corrisponde annualmente a una cedola periodica. Okay? Un po' come nel caso di Anna? Un po' come nel caso di Anna. Qui bisogna fare molta attenzione, perché un conto è se la cedola periodica che viene corrisposta è il frutto degli investimenti del fondo interno, quindi non va a intaccare il capitale versato. Un conto invece è se questa polizza è, per esempio, in misura fissa annuale, per esempio il 5% all'anno, il 4% all'anno, o cose del genere, viene rimborsata comunque, e questa cosa, se il capitale sottostante non ha generato una sufficiente redditività, va a intaccare il capitale. Esatto. A lungo andare lo può anche azzerare. Che è un po' un vizietto che hanno anche alcuni fondi di investimento a cedola, che sono largamente distribuiti in questo momento dall'industria, e prometto già qua, magari Lupotto la faccio proprio con lei, faremo un approfondimento anche su questo, perché sì, la cedola arriva magari su base semestrale o annuale, poi però appunto quando il mercato non è in grado di distribuire questi dividendi, il fondo, pur di garantirli al proprio sottoscrittore, va ad intaccare il capitale, no Lupotto? Esattamente la stessa cosa. Va di pari passo con il discorso dei fondi a cedola. Quindi attenzione. Allora, prima di salutarci direi di sentire se ce la facciamo due ascoltatori. Luigi da Roma, velocissimo, grazie. Buongiorno Deborah, buongiorno. Volevo sapere questo: io ho sottoscritto, non volevo prendere dei fondi, mi hanno fatto sottoscrivere una polizza vita Gran Mix chiamata, che poi leggendo è formata da due, io ho chiesto la polizza vita, ma è composta da due fondi. Ma questo, diciamo così, io non volevo fare i fondi. E quindi Luigi, lei diciamo che prima di contestarlo alla radio doveva leggersi il prospettino e dire: ma insomma, vedo questa parola fondi, vi ho detto che non li voglio, non la firmo. Detto questo, non vogliamo fare terrorismo, vediamo un po' Lupotto se ci dà la soluzione. Cosa può fare? Può andare a lamentarsi e investire immediatamente l'ascoltatore? Potrebbe anche essere una cosa diversa che i due fondi che cita il nostro ascoltatore Luigi siano: uno, un fondo a gestione separata della compagnia, che sia una polizza cosiddetta mista, quindi con una gestione separata da una parte e una unit link dall'altra. Però la unit link normalmente effettivamente investe in fondi, se il cliente non dice diversamente, quindi probabilmente questo investimento in fondi è stato solamente mascherato dal vestito di polizza. Però bisognerebbe anche qui vedere i prospetti. Luigi, cuoredenari@radio24.it, ci invii un po' di documenti che noi daremo un'occhiata molto volentieri. Ce la facciamo a sentire se qualche ascoltatore è stato in grado di rispondere al domandone? Caterina da Roma, benvenuta. Sì, buongiorno. Senta, le index sono delle polizze collegate ad un indice, generalmente, che può essere un indice di un mercato di borsa. Sì. Le unit dovrebbero essere quelle con sottostante dei fondi comuni. Caterina ha studiato e quindi si merita un altro libro su cui studiare ulteriormente. Grazie. Poi scrivo, dico ad Ettore invece che non ce la facciamo a sentire, o ci scriva anche lei, oppure visto che è a Torino bussi alla porta di Gianni Lupotto che ce la fa. Ha fatto una polizza per la moglie per avere un vitalizio, quindi reddito integrativo, ma non ci ha preso nulla, chissà che cos'ha. Abbiamo terminato, Lupotto, grazie. Domani siamo a Forum Agenti, ritorniamo. Potete venire a trovarci. Tu porti Andrea Salonia, vero? Sì. Io invece porto Davide Ricci, il grande